Giovedì 18 maggio inizia Tracce di Cinema, sono le 15.02, benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di questa radio. Oggi un grande regista, film più che celebri, proprio fanno parte dell'immaginario di collettivo di tutti noi. Parlo di Woody Allen, l'ospite di oggi lo presenti tu perché io non ce la faccio più con tutti questi ospiti importanti, però oggi è veramente importantissimo, famosissimo, ha vinto un sacco di premi, tra l'altro Che vincere. Ho aperto l'ANSA oggi per leggere un po' di notizie e c'era una cosa su di lui, quindi ho detto porca paletta, roba seria oggi qua. E io dico soltanto qualcosa per introdurre il nostro regista con i film di cui parleremo. Alcuni film film di questo regista. Scelti dal nostro ospite. Scelti da lui. Disaccordi. E poi che altro? Manhattan, Midnight in Paris, Misterioso omicidio a New York e tutti dicono I love you. Woody Allen che ha un rapporto abbastanza profondo e complesso con la musica, che è sempre onnipresente nei suoi film. Da sempre Allen attinge a un patrimonio personale che è, musicale, che è vastissimo, perché è un grande amante della musica e musicista lui stesso. Jazz in particolare, ma lui è amante di tutto, della musica classica, lirica, la musica popolare, etnica, folcloristica, proprio la ama in tutte le sue caratteristiche e sonorità, e ne ha sempre arricchito i suoi film e le atmosfere dei suoi film proprio con brani anche molto celebri che danno proprio una sorta di ritmicità alle sue pellicole. E pensa, Fede, stavo leggendo che per quasi 40 anni Woody Allen non si è mai avvalso della collaborazione di compositori specializzati. Se si accettano Prendi i soldi e scappa e Il dittatore dello Stato libero di Bananas, in cui figurava un giovanissimo Marvin Hamlisch, e nel 2007 Sogni e delitti, in cui Allen usufruisce della collaborazione con Philip Glass, niente un po' di meno che. E però insomma ha sempre dato insomma onore e spazio a delle musiche che lui sceglie personalmente, e musiche che poi vengono appunto, come dicevo prima, rappresentano e arricchiscono le sue storie, che hanno sempre delle tematiche pressoché fisse, come il sesso, la psicanalisi, le donne, la cultura, la metropoli e ultimamente anche la vecchiaia e il destino e il caso. Predilige per quanto riguarda la musica all'interno dei suoi film il jazz anni 30 e 40. E che altro dire? Introduci il nostro ospite a questo punto. Introduco il nostro ospite perché stavamo dicendo prima di alternare un brano dalle colonne sonore di Woody con il tuo nuovo disco di cui oggi parleremo, per cui io comincerei con Woody, no? Che dici, Pigi? Intanto benvenuto. Grazie. A Tracce di Cinema. Che piacere, Tracce di Cinema, fantastico, si parla di cinema. Io faccio il cantautore e quindi scoprire che fra poco sentiremo una mia canzone in mezzo a compositori importanti, quelli scelti da Woody Allen, veramente fa paura, quindi eviterei questa cosa di fare l'alternanza, però abbiamo detto che si fa così, quindi ce la teniamo. Senti, da quale film vogliamo partire? Ma guarda, ce ne sono tanti che abbiamo pensato insieme. Però ce n'è uno in particolare che per me è importantissimo, sì, che è proprio Accordi e Disaccordi. Accordi e Disaccordi. Perché tra le tante cose che io faccio, le mie canzoni hanno sempre momenti di swing, come insomma poi racconteremo in questo nuovo singolo. Ma io ho proprio formato un'orchestra che omaggia Woody Allen, che si chiama M3 Manouche Orchestra, che è un mio progetto parallelo, a parte quello da cantautore, in cui suoniamo i brani di M3, che è la figura inventata da Woody Allen, interpretato da Sean Penn, del secondo chitarrista al mondo, no? Secondo ovviamente al primo, che era Django Reinhardt, e lui in tutto il film Accordi e Disaccordi dice: io sono il più grande chitarrista del mondo. Beh, vabbè, no, c'è uno zingaro in Francia che è più bravo di me, e quindi è l'eterno secondo, e io appunto con i nostri amici Manouche Romani abbiamo formato questa grande orchestra di chitarre, e quindi mi piacerebbe proprio iniziare da lì, perché Accordi e Disaccordi è un film a cui tengo particolarmente. Senti, di Django, I'll See You in My Dreams o Sweet Georgia Brown? Secondo me I'll See You in My Dreams è perfetta per iniziare, perché era proprio, diciamo, la colonna sonora del trailer del film, quella che proprio ha caratterizzato quel film, che quindi per me è proprio la canzone principale di M3. Perfetto. Ti vedrò nei miei sogni, I'll see you in my dreams, Django Reinhardt. Ottavia, avevi delle cose in serbo. Allora, la colonna sonora appunto si basa su dei classici del jazz anni 30, sono riarrangiati e diretti da Dick Hyman e eseguiti da Howard Alden, che poi tra l'altro ha anche aiutato Sean Penn a imparare a suonare la chitarra, così Woody Allen non doveva tagliare. Ci sono delle inquadrature delle mani di Sean Penn, alcune fatte molto bene, altre un pochino strane, ma insomma qualcosa di buono c'è. E anche se la versione che abbiamo appena sentito mi sa che era proprio Django. Sì, era una versione originale di Django. E poi un'altra cosa divertente del film è che è stato la fotografia è stata diretta da Zhao Fei, che è il direttore della fotografia, bravissimo, di Lanterne Rosse, che ha lavorato per la prima volta con Allen, e Allen si è ispirato a lui perché aveva un inglese talmente approssimativo per creare poi il personaggio del direttore della fotografia di un suo film Hollywood Ending. E poi ci sono tanti omaggi, insomma, perché poi il cinema di Allen è spesso nel suo cinema omaggia i film di altri registi. C'è un bellissimo omaggio a Federico Fellini, alla strada di Federico Fellini e altre cose. E invece di questo meraviglioso chitarrista, il film non l'ho rivisto perché l'avevo già visto, ma di solito io rivedo sempre i film per quanto riguarda, perché sei una professionista, diciamo. Era tosta rivedermeli tutti e quattro, non avevo tempo, però ho visto questo biopic su Django Reinhardt di Etienne Comar, che insomma è molto bello, vi consiglio di vedere. Brava. Assolutamente. E parla appunto, è la storia di questo chitarrista, e però non è proprio un documentario su di lui quanto sulla denuncia che questo regista fa riguardo la sistematica persecuzione del popolo gitano da parte dei nazisti. E di questo fantastico chitarrista tutti sanno la storia, la conoscono tutti. È nato in Belgio da genitori appunto sinti e ha passato i primi anni della sua vita per le strade di Parigi suonando il banjo, e poi ha imparato da autodidatta a suonare la chitarra e il violino. Per tutta l'adolescenza ha accompagnato con il guijo, si dice così, lo conosci questo strumento? Che è una specie di benzo col manico da chitarra, vari fisarmonicisti per i locali della capitale. Poi insomma è arrivato un primo ingaggio importante che consisteva nel seguire in tour tre fisarmonicisti molto importanti e un cantante, Maurice Chomel, e è iniziata la sua carriera. Ma prima proprio che tutto potesse cominciare, rimane vittima di un terribile incidente che appunto lo segnerà a vita. Una sera di ritorno da un'esibizione raggiunge la moglie Florine nella roulotte in cui vivono e un rumore fra i fiori finti che la moglie vende di giorno, forse un topo, attrae l'attenzione del musicista, che si china per controllare, ma lo stoppino della candela che tiene in mano cade inavvertitamente nei fiori e scoppia un terribile incendio. Lui riesce a salvare sua moglie, ma non riesce a salvare anche se stesso, anche se riporta gravissime ustioni su tutto il corpo, su tutto il corpo, e le peggiori riguardano la gamba destra e le ultime due dita della mano sinistra. Dopo un anno la prima tornerà a funzionare, ma le dita rimarranno semiatrofizzate a vita, oltre che fuse insieme, quindi una tragedia. Seguono anni difficilissimi e tra il 1929 e il 1935 il fratello Joseph gli regala, dopo questo incidente, una chitarra, e lui in questo periodo mette appunto una tecnica tutta sua per suonarla, e impara a suonare la chitarra con un solo dito e riesce a fare delle così si dice, no, rullate cromatiche sulla stessa corda, no? PG dice sì, così. Sì, beh, insomma, non credo che rullate sia proprio il termine giusto, a volte si usa frullate in un altro senso, però comunque lui con due dita riusciva a fare, con tre dita anzi, riusciva a fare delle cose che moltissimi di noi con 20 dita non riuscirebbero a fare. Comunque insomma inizia continua la sua carriera nel 1934 con Grappelli, che insomma è un musicista con il quale lui suonerà, violinista con cui sempre ha mettono duettato insieme uno dei quintetti meglio riusciti nella storia del jazz, il quintetto du Hot Club de France. Sì. Con cui firmerà i suoi lavori più conosciuti. Poi allo scoppio della seconda guerra mondiale si ritrova intrappolato nello stesso identico incubo in cui c'erano anche ebrei, neri, dissidenti politici, che appunto i nazisti, e si sa che a partire dal 1942 ogni zingaro trovato dall'SS veniva sistematicamente deportato nei campi di sterminio. Quindi Django cerca di scappare dalla Francia in Svizzera, ma viene rispedito di nuovo in Francia, viene graziato da ufficiali nazisti segretamente innamorati del jazz, e ricomincia a comporre canzoni. Nuage, una delle sue opere, brani più famosi, è stata talmente amata dai parigini che è diventata una specie di inno della liberazione dall'oppressione fascista. E poi dopo la guerra è diventato una star di fama mondiale. Negli Stati Uniti si esibisce con Duke Ellington e altri grandissimi artisti, e uno degli ultimi progetti risale al 1949, quando lui viene a Roma e insieme a Grappelli, e assolda tre jazzisti italiani, e negli studi Rai di Roma registra oltre 60 brani. Nessuno viene a sapere dell'intera registrazione per almeno 6 anni, quando poi sarà stampata e messa in commercio con il nome di Django in Rome. E qui io direi di passare di arrivare anche alla tua musica, Pigi, rispetto anche ai brani che ci hai indicato dei tuoi lavori. E cosa, allora, che composizione è questi? L'ultimo singolo si chiama L'amore ai tempi dello swing, e insomma è una specie di, io l'ho chiamato manifesto ufficioso, molto ufficioso dell'elettro swing, che è questa musica che amo moltissimo, che viene un po' dal nord Europa, che in Italia ancora non è tanto conosciuto, la facciamo in pochissimi, e che molto spesso è anche stata portata in Italia soprattutto in chiave DJistica, no? Quindi a volte anche un po' discotecara. Io volevo invece darne una versione molto suonata, molto anche jazzistica, se vogliamo, e nel mio caso cantautorale, perché poi fondamentalmente faccio il cantautore. E quindi per me, in maniera laica, si tratta di mescolare la musica swing degli anni 30 e 40 di cui abbiamo parlato finora all'elettronica di oggi, ai timbri più freschi, più nuovi dell'elettronica, quelli con cui si fa l'elettronica anche più sperimentale ma anche più pop. E quindi mescolare tutti questi linguaggi e cercare di fare un, come tra l'altro descrive la canzone, un viaggio nel tempo sulla DeLorean di Ritorno al Futuro con Doc McFly, no? Con Michael J. Fox e Doc, e fare un passaggio avanti e indietro, avanti e indietro, anni 30, anni 40, 2017, 2017, anni 40, saltando tutto quello che c'è in mezzo, che mi interessa molto meno, e giocare così. Questa canzone però descrive questo mondo, ed è una specie di sogno mio che ho fatto, forse ho bevuto troppo, in cui tutti i jazzisti, che ne so, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, diventano dei musicisti elettronici, quindi si mettono a suonare tablet, a fare scratch, a usare il Mac per utilizzare in questo modo le loro chiavi jazzistiche, ma in chiave elettronica. Cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te. E la musica vecchia dov'è? Parte piano, arriva forte, spalanca le porte. La musica robotica binaria che si mescola con il jazz, un po' come se Django suonasse il Mac. Forte piano piano, forte sassofoni e trombe. Sul letto di elettronica la musica si libera dai cliché, un po' come se ella cantasse rap. Somma il passato al futuro e poi moltiplica per sé. Salta su questa DeLorean, vai con Doc e con McFly. L'amore ai tempi dello swing ti fa così. Cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te. Ti muove tra sogni e incubi col joystick. Cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te. Si fa così. Parte piano, parte piano, parte piano. Quando balla balla forte, deforma le forme. La medicina magica, la musica, la cura contro ogni stress. E Billie Holiday che balla dance. Parte piano, quando bevo vedo Parker che suona col tablet. A volte vedo Ellington che scrive la sua musica con Cubase. E vedo Louis Armstrong fare scratch. Parte piano, il nuovo swing. Somma il passato al futuro e poi dividi per chi sei. Salta su questa DeLorean, vai con Doc e con McFly. L'amore ai tempi dello swing ti fa così. Cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te. Ti muove tra file e sincopi col joystick. Cambia il tempo attorno a te, l'amore ai tempi dello swing si fa così. Attorno a te, cambia il tempo attorno a te, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? L'amore ai tempi dello swing, il nostro Pigi. Questa canzone è una canzone a cui tengo molto, perché appunto non sapendo mai come spiegare che cacchio di musica faccio, sta cosa dell'elettro swing, ho detto sai, mo ci scrivo una canzone così almeno si capirà qualcosa, forse si capisce ancora meno, però per quello è nato il video. No, volevo ancora parlare un attimo della canzone, perché poi prende le mosse da una vecchia meravigliosa canzone di Enrico Ruggeri, che era Nuovo Swing del 1984, e in cui diceva parte piano nuovo swing, cambia il tempo attorno a te, che sono un paio di frasi che utilizzo anche nella mia canzone, tant'è che appunto abbiamo firmato insieme io, Ruggeri e Rettani questo brano. Nuovo swing all'epoca nell'84 voleva dire probabilmente tutt'altro, una canzone d'amore quella di Ruggeri, però dentro di me è come se prefigurasse questo nuovo avvento di questo nuovo, come si dice, new jazz, no? Con nu scritto nu, new jazz, new swing, quindi nuovo swing, l'elettro swing è un po' il nuovo swing, e quindi mi sembrava giusto omaggiare Enrico Ruggeri in questo senso. Tra l'altro tu lo pratichi da parecchio tempo e devo dire questo è un periodo particolarmente felice per lo swing, a Roma è esploso. Sì, devo dire che questa è un'altra di quelle cose che mi ha fatto molto piacere, perché quando uno nella vita come me e come tutti quelli che in questo momento stanno ballando, cantando e suonando lo swing, amano quel genere musicale, lo fanno principalmente per essere completamente fuori moda. Quello è lo scopo principale. Poi il fatto che capiti che invece non la moda, però insomma che qualcuno un po' più di persone si avvicinino a quel mondo, se tu eri nato cercando di essere fuori moda, se poi la moda ti capita addosso ti può fare solo che piacere, perché sei salvo, diciamo, l'hai fatto in tempi non sospetti. No, a parte gli scherzi, non credo sia una moda, perché soprattutto è un mondo musicale molto intenso. Cioè lo swing ha questa cosa secondo me straordinaria che ha, proprio perché si balla moltissimo, ma è un ballo sul jazz, quindi tu hai dei contenuti ricchissimi. Sì. Balli su una musica che se però mentre balli vuoi ascoltare, ci sta un mondo assurdo dentro, pieno di cose anche molto difficili da capire, però la bellezza dello swing è questa, che è difficile dentro e invece molto allegro fuori, quindi è secondo me democratico in questo senso, perché a seconda del grado di capacità dell'orecchio dell'ascoltatore tu puoi prenderne dei passi. Sì. Cioè se tu sei in grado di capire il linguaggio jazzistico, così come una lingua, no? Se parli il francese, se sei in grado di capire parola per parola il francese, ti godi tutto quello che ha detto l'interlocutore. Se non sei capace di capire parola per parola il francese, però quanto è figo sentire il francese, è bello uguale, cioè comunque una figata, anche se capisci una mazza è molto bello da ascoltare. E così è il jazz e lo swing in quegli anni lì, 30 e 40, e nelle rivisitazioni di adesso, cioè molto allegro, molto brioso, molto fresco, però dentro se ci vuoi mettere il cervello e l'orecchio ci sta un mondo, e questo mi piace molto. Ed è quello che fanno le varie tribù in città, perché io ho amiche che frequentano proprio lo swing e quindi si vedono nei luoghi a ballare anche all'aperto, sotto i colonnati. Ci sta di tutto ormai. Sì, è proprio una cerchia, varie cerchie, concerti in giro per Roma, insomma si è creata una vera e propria comunità. Sì, sì, anche se è una comunità molto aperta, sì. È una cerchia cerchiata, nel senso che poi di fatto appunto è il jazz, quindi è una cosa che poi possono abbracciare tutti. Sì. E poi è chiaro, il ballo ha degli stilemi precisi da rispettare, io per esempio sono capace però mi metto lì, guardo per esempio, oppure faccio dei passetti da scemo, cioè si può fare in tanti modi, ed è anche per questo che è nato questo Electro Swing Tutorial. Cioè noi abbiamo pensato che questa canzone, L'amore ai tempi dello swing, fosse talmente strana e strampalata che non potesse meritare un videoclip normale, allora abbiamo deciso di fare anche un videoclip un po' matto, e l'idea è stata quella di fare un tutorial sull'elettro swing. In Italia non sappiamo ancora cos'è l'elettro swing, allora facciamo un tutorial. Abbiamo chiamato dei grandi maestri come Renzo Arbore e Fiorello a spiegare con la bacchettina, come un po' a Rocky Horror Picture Show si faceva, no? Just a jump to the left, che con la bacchettina indicava i passi di danza, ma non soltanto su come si balla, ma anche su cos'è l'elettro swing e come si ascolta l'elettro swing. Poi oltre Fiorello e Arbore ci sono Michele Andreozzi, Tiziana Foschi, Valentina Correani, Stefano Disegni, Dario Salvatori, Claudia Campagnola, Antonio Pisu, Max Vado, cioè veramente un sacco di Carlo Massarini, un sacco di gente che sono divertiti con me a fare questo gioco. È proprio un tutorial vero, cioè tu se vedi il mio videoclip invece di vedere uno che canta, che sono io, che ogni tanto ci sto anch'io che canto ovviamente, però si vedono loro che spiegano le varie cose di che cacchio è sto genere musicale nuovissimo. Si cambia ancora. Abbiamo detto che era complicato, sarebbe stato complicato parlarci sopra, però lo lasciamo in sottofondo, sì, perché poi hai degli aneddoti da leggere. È molto lunga, è molto lunga, dura 15 minuti, sì. E quindi siamo costretti a parlarci sopra. Beh, insomma, uno dei pezzi più eseguiti dalle orchestre di tutto il mondo, questo pezzo di George Gershwin. Era il 1924 e si dice che la compose in meno di 3 settimane. Sì. E questo è uno dei lavori che è stato più apprezzato di questo grandissimo musicista. Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra, una composizione classica che combina 5 melodie differenti, alterna il classicismo al jazz, e l'idea per la composizione per questa composizione Gershwin l'aveva maturata mentre andava a Boston in treno per la prima di una sua commedia musicale. Dichiarò: in treno i ritmi metallici musici del frastuono che in un compositore agiscono spesso come stimolo, mi suggerirono improvvisamente e in modo nitido la costruzione completa della rapsodia dall'inizio alla fine, e la consegnò a questo produttore Whiteman senza averla ancora ultimata. E poi Fred Groffé preparò, mentre Fred Groffé Ferd Groffé, scusate, preparava l'orchestrazione, Gershwin stava provvedendo agli ultimi ritocchi, avrebbe voluto ancora cambiare qualcosa, ma Whiteman diede inizio alle prove e dopo la prima il direttore esclamò: diavolo, pensava di poterla migliorare ancora. Ma è un peccato che tu mentre ci racconti queste cose chi ci ascolta non ti può vedere con quel ventaglio di legno in mano. È scoppiata l'estate. Comunque Manhattan era il 1979 quando Woody Allen girò questo film, che è uno dei suoi capolavori, sì, secondo me, sì, non solo perché la storia è fichissima ma anche perché la sceneggiatura è una ottima sceneggiatura, ma anche perché è proprio una grande celebrazione della città di New York, che Woody Allen ama tantissimo, ed è molto bella diventa quasi protagonista la città, ed è bello anche il modo in cui la descrive, perché la descrive non una New York da cartolina patinata come invece fa per esempio quello su Parigi, che ce ne parliamo, Midnight in Paris, ma la racconta in tutte le sue sfaccettature, no? Non trascura di farci vedere anche i difetti. Per esempio c'è una scena nella barca al Central Park in lui mette la mano nell'acqua e la tira su tutta piena di fango. Però comunque con un grande trasporto romantico, tant'è che la gira in bianco e nero questa città, certo, no? Per Manhattan, la quindi... gira in bianco e nero anche perché ha dichiarato in un'intervista il cinema che lui per primo ha conosciuto era il cinema in bianco e nero, e voleva rendere pienamente partecipi gli spettatori di questo suo amore per il cinema classico. Oh, parliamo di cinema, ma noi Pigi ci siamo conosciuti in ambito teatrale, sì. Prima grazie al progetto, quel fantastico progetto che è Voci nel Deserto, sì. E poi quando ti ho proposto la tua partecipazione a questa puntata eravamo nel foyer del Teatro India, per dire. È vero, perché veramente per me il teatro, vabbè, così come il cinema, oggi appunto mi avete chiesto di scegliere delle colonne sonore, non potevo che andare su Woody Allen perché Swing è la musica mia, sì, preferita, parte, sì, tutta da lì, e anche il mio cinema preferito tra l'altro parte da lì. Però sì, sono un grande amante del teatro, ultimamente sto andando moltissimo a vedere ma anche a farlo, per fortuna da qualche anno, appunto tra Voci nel Deserto, come hai ricordato te, e le collaborazioni strettissime con Michele Andreozzi e Tiziana Foschi in campo teatrale, insomma mi stanno portando in giro per, tra l'altro, meravigliose situazioni italiane, teatri italiani che sono veramente tra le nostre perle più rare, e quindi è un modo bellissimo per girare l'Italia. Devo dire che con la musica a volte si finisce in postacci, invece col teatro si finisce sempre in posti meravigliosi. Tra l'altro citavi Tiziana Foschi, che è stata anche con noi a leggerci delle favole nella, sì, trasmissione, ciao, che avevamo. mitica Tiziana Foschi, che con Michele Andreozzi è tra gli ospiti di quel video tutorial che abbiamo detto prima, quindi tutto torna. Senti, e tornando alla tua musica, che cosa ci ascoltiamo adesso, che dici? Ma guarda, dopo che riuscì in Rhapsody in Blu parliamo un altro po', secondo me, perché vorrei tenere uno stacco abbastanza gigante, anzi mi piacerebbe, ecco, per prendere qualche secondo in più, mi piacerebbe ricordare che quel brano lì, sì, era proprio l'intro di Manhattan, quell'intro, sì, Incipit stupendo, apre e chiude il film, esatto, e l'Incipit stupendo è di lui che inizia il suo libro, perché poi è la storia di uno scrittore e c'è l'incipit del film che mima l'incipit del libro, e quindi ci sono le prime parole del suo libro che cancella tutte le volte, quindi c'è lui che scrive le prime parole ovviamente parlandole per noi, e intanto si vedono le immagini meravigliose della Manhattan in bianco e nero, poi cancella, rivede, e poi sono sempre molto innamorato di New York, e io molto innamorato di lui. Senti, ma stavo tuffo nel passato, stavo leggendo qua nella tua biografia che nel 2008 hai fatto un tour di 30 giorni in locali, vari locali romani, e ogni sera c'avevi una formazione diversa. Sì, si chiamava il... Perché? Perché non ti so, perché te accannavano, non ti sopportavano. Il senso era, si chiamava Viva la Gavetta Tour. Cioè era un bellissimo omaggio alla gavetta, e quindi era proprio 30 giorni tutti i locali di Roma a tappeto. Ma era accompagnato sempre da semplicemente perché non mi stavano appresso tutti, quindi uno veniva la sera, uno veniva la sera dopo, uno veniva rivengo giovedì, perché non è tutti i giorni, mi ha rotto il cazzo. Cioè questo era un po' il motivo che ti ho svelato, era questo. Quindi però chiamavo tanti amici, perché già all'epoca avevo tanti collaboratori, e quindi ruotavano le formazioni in modo che io mi facessi il mazzo vero, e loro un po' meno, perché ognuno faceva un po', invece di 30 date magari 10, 8. Senti, ma hai mai curato anche delle colonne sonore? Sì, qualcosa l'ho fatto, ho scritto delle cose per il cinema, e tra le cose più importanti ho partecipato a dei film di Massimiliano Bruno in colonna sonora, e con una canzone scritta insieme a Maurizio Filardo, The Lamp of Aladdin, una delle mie... Ah, ce l'abbiamo nella scaletta. E allora sarà la prossima. Sarà la prossima. Nel film di Paolo Genovese, che si chiamava Sei mai stato sulla luna, questa canzone diciamo copriva le immagini di Emilio Solfrizzi in macchina con tre vecchiette, che si era rimorchiato delle vecchiette, così per scherzo, e la musica era questa nostra canzone nel mio primo caso di tentativo di scrivere in inglese. Ho sempre scritto in italiano, però in questo caso insomma inglese, diciamo un inglese un po' broccolino, un po' broccolino. Broccolino. Allora passiamo a Massimiliano Bruno, al film di Massimiliano Bruno, no? Questo è Paolo Genovese, appunto. The Lamp of Aladdin, è okay. Film di Paolo Genovese, Sei mai stato sulla luna. Ok. Mozzarella, no cheese. lampada di Aladino. Sì, sì. Da un film di cui hai scoperto qualcosa, Ottavio, no. Vero? No, no, niente, stavo guardando in giro musiche originali di Maurizio Filardo, che ha scritto con me questa canzone. C'è anche un pezzo di De Gregori, beh, che onore. Beh, altro che pezzo di chiusura, titoli di coda De Gregori. No, qualcosa l'avevi scoperta invece, ce l'ha vabbè, non la diciamo. Non interessa a nessuno. Cosa? La sceneggiatura. Sceneggiatura. Vabbè, comunque. Senti, io mi sa che non è un film che non ho visto. Lo 2015 sei messo sulla luna, no, molto divertente. Raoul Bovaneri, Marco Re, la grandissima, io l'amo tantissimo, Sabrina Impacciatore, mi sta proprio simpatica, sì, è pure sì, molto sì, brava secondo me. E sì, ha avuto un grande successo, Fede. Sì. E questa collaborazione com'è venuta fuori? Beh, con Maurizio Filardo appunto abbiamo fatto un pezzo insieme, lui ha prodotto artisticamente la mia versione Electro Swing di C'è chi dice no di Vasco, e da lì è nata questa collaborazione. E quindi poi, siccome lui ormai dopo aver fatto tantissimi anni da chitarrista su tutti i palchi d'Italia con Daniele Silvestri, ma anche con tante altre formazioni, adesso è molto dedicato alle colonne sonore, sta yes, facendo delle colonne sonore stupende, e ogni tanto mi chiede di scrivere qualche testo e qualcosa riguardante i brani che stava mettendo in un film, e quindi è successo tante volte. Questo è il caso più emblematico, perché è una canzone che mi diverte molto, e poi anche la scena del film è molto divertente. Molto ben riuscita la canzone. Grazie. È il momento di Ella. Ah, questa mi sa che, questa, che hai preso una versione bellissima di una canzone che in altra versione finisce nel mio film preferito di Woody Allen, che è Tutti dicono I love you, film un po' snobbato secondo me, sì, ma assolutamente geniale, una specie di parodia del musical. Erano gli anni 90, metà anni 90. Esatto, una parodia del musical girato tra New York, Parigi e Venezia, molto divertente, con tanti grandi personaggi, un cast bellissimo, e anche delle scene pazzesche, tipo balletti in ospedale, ceneri. Tipo un musical. Sì, tipo musical. A un certo punto c'è un funerale, e le ceneri del morto si animano e fanno un balletto. Cioè, delle scene, come solo Woody Allen sa fare, tra l'altro trattando con grazia anche cose che in qualsiasi altro modo diventi pesante e poco divertente. Invece lui riesce a fare con la sua solita magnifica sobrietà, ma anche un grande romanticismo, queste cose. E quindi Making Whoopi. Every time I hear that march from Lohengrin, I am always on the outside looking in. Maybe that is why I see the funny side when I see somebody's brother take a bride. Weddings make a lot of people sad, but if you're not the one, they're not so bad. Another bride, another June, another sun, honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice, it's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little loveliness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes, he's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge right into jail. You'd better keep her, I think it's cheaper than making W-H-O-O-P-E-E. Whoopee. Questa era Making Whoopee, la voce l'ho scelta io, la versione Ella Fitzgerald. Che bello, mamma mia, ma tu mi fai sfigurare, questa è la verità, che facciamo sta cosa dell'alternanza. Tra vicino a Ella sfigurano un po'. Ma che cavolo. Tutti dicono I Love You 1996, 26esima fatica di questo grandissimo regista, musical, molto prolifico, molto prolifico, un film l'anno praticamente. Un cast corale formato da un'enorme quantità di attori e di star, che e Allen ha tagliato molte sequenze del film. C'erano Liv Tyler, Tracy Ullman, anche il nostro Kim Rossi Stewart è stato tagliato, però. Tagliato, via. Peccato. Volevo ricordare perché un caro amico che è scomparso e che ha curato la fotografia di questo film, Carlo Di Palma, grandissimo direttore della fotografia, ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Rossellini a Germi, Scola, Bertolucci, Monicelli, Michelangelo Antonioni, soprattutto con cui aveva realizzato Blow Up, Deserto Rosso e Identificazione. Beh, la fotografia di Antonioni, di una per donna, carità. Che gli vuoi ed dire? È stato l'occhio cinematografico di Woody Allen, sì, perché sì, ha curato la fotografia per ben 18 film, per ben 18 anni, scusate, in film memorabili, da Anna e le sue sorelle. 18 anni vuol dire quasi 18 film, perché lui ne sforna uno l'anno. Perché. E insomma, un grandissimo direttore della fotografia, nonché una persona splendida, un animo gentile. E chissà se ci sta ascoltando. Ciao Carlo. Allora, Pigi. Che cosa? Che mi guardi così? No, prossimamente che succederà? Beh, insomma, adesso stiamo proprio in ballo. È uscito proprio pochi giorni fa questo singolo e il video connesso. E niente, adesso abbiamo fatto dei primi live, continueremo a farne. A Roma saremo a Una Cosetta, a Pigneto il 2 di giugno, per esempio. Ma insomma, adesso sarò a Isernia dopodomani. Insomma, gireremo un po' in lungo e largo. Ma al di là di questo, quello che mi fa piacere è proprio di cercare di far ascoltare e vedere il più possibile questo brano, perché insomma c'è stato un bel lavorone dietro. Yes. Per me è stato molto importante, è molto importante, quindi ci tengo moltissimo. Quindi L'amore riempie lo swing, speriamo che si possa ascoltare e ballare e cantare tutti in quest'estate, in questo maggio, in questo giugno, non lo so quando. Però ecco, è un modo, quello che ti volevo, poi non ho più detto prima, questo tutorial è un modo anche per dire che quando dicevi c'è una comunità di swing, di sì, gente che balla swing, una cerchia, non è stretta, specialmente nel campo dell'elettro swing si allarga ancora di più, perché la figata dell'elettro swing è che tu puoi, quello che dico io è che c'è anche nella scena del tutorial che fa Claudia Campagnola, ascoltare con l'orecchio destro la pulsazione ritmica dell'elettronica e con l'orecchio sinistro la sincope dello swing, quindi tu puoi ballarla come balleresti una qualsiasi musica elettronica, quindi senza particolari leggi, oppure puoi ballare parlare con i balli dello swing, che invece sono molto codificati e meravigliosi. Questo invece è un brano di cui lamentavi il poco passaggio in giro, e ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Sì. Piega le tue vacanze nella tua magica Italia. Welcome to Italy, welcome to Italy. Welcome to Italy, welcome to Italy. Invidio turista che arrivi vivendo il sogno che so che sognavi. Chiama e regalati un viaggio che vedrai è il più wonderful fatto mai. Porto in un mondo irreale, so che all'estero non ci credete, ma è molto beautiful, ti sorprenderai, scegli l'Italy che più vuoi. Pacchetto scavi di Pompei, relax con belle gladiatrici, sauna, lotta fango e omaggio pezzo Domus Gladiatori. Sì, siamo italiani, brava gente, noi capiamo chi lavora tutto il giorno e un'ora si diverte. Sì, siamo italiani, brava gente, siamo semplici ma difendiamo arte, storia e ambiente incrollabilmente. E abbiamo il mare, abbiamo il sole, tutto il mondo per sempre invidierà le nostre chiese, il nostro cuore. Se chiami per primo gratis trota con grano padano, auto a noleggio, Ford Escort, cabriolet come nuova del 93. Pacchetto centro storico dell'Aquila, bellissimo, tendopoli di lusso a sole 1100 euro. Pacchetto Costa Giglio, hotel Lo Scoglio, invito a cena con relitto, vino di Moldavia, biondo in plancia di comando. Sì, siamo italiani, gente, un eco mostro che dà voti solo a chi promette, poi promette. Sì, siamo italiani, brava gente, piezze pane, piezze core, piezze merda, piezze niente. E se non resterà più niente. Abbiamo il mare, abbiamo il sole, tutto il mondo. Welcome to Italy. Censurata. Colpevole fu la parolaccia. È stata censurata da molte emittenti radiofoniche, si raccontava Biggi. Sì, ma insomma, non è, ma esageriamo, però insomma, la cosa è che ovviamente è una canzone che tentava di denunciare un periodo, tra l'altro molto berlusconiano del nostro paese, ma però in realtà la cosa a cui tenevo moltissimo in questa canzone è che, sai, esistono tante canzoni di denuncia sull'Italia, un po' così, in cui si spara un po' a casaccio e si dice che tutto va male, che l'Italia fa schifo e cose così. Io volevo cercare di mirare un po' meglio, e infatti non so se magari si capisce bene in questa canzone, però ecco, tutto il fronte, diciamo, paesaggistico culturale in Italia è un po' bistrattato e maltrattato, che secondo me invece potrebbe essere la risorsa anche economica principale del nostro paese, essendo un paese di bellezze in cui i siti UNESCO ci abbiamo più di tutto il resto del mondo, stanno in Italia, posti di lavoro, posti di lavoro, potrebbe essere che l'economia italiana fosse sia fiorente anche soltanto badando a questo. Invece ci si bada pochissimo e si lasciano distruggere luoghi meravigliosi, insomma non si ricostruisce l'Aquila, si lascia distruggere Pompei, è quello che cerca di raccontare questa canzone. Poi insomma ne è stata fatta anche un po' una questione politica più generale, forse lo era, anzi senza dubbio lo era, però fondamentalmente cercavo di non dire qualcosa di generico, ma di dire qualcosa di in cui prendevo in giro il mio bel paese e sta zozza società, però cercando di focalizzare un'invettiva a una cosa specifica, insomma. Senti, ci hai detto di alcuni prossimi appuntamenti, invece i tuoi riferimenti sul web per saperne di più? PG, scritto come si scrive con la J, come si scrive Isole Figi, ma con la P, per intenderci, che se no non si capisce mai come è scritto, PG, come se fosse PG, però si dice PG con 35 giga alla romana, proprio per leggerlo, proprio per scriverlo PG invece. E quindi ci sta Facebook, ovviamente, soprattutto nella quale sono più attivo sicuramente, e Twitter anche abbastanza, però su Facebook sto più sul pezzo, andiamola così. Senti, passiamo ai saluti, Otti. Sì, passiamo ai saluti. Abbiamo ricordato gli appuntamenti per quanto riguarda i concerti di PG. Io voglio ricordare gli appuntamenti che riguardano invece questa radio, che sta per compiere 40 anni. Non si fanno gli auguri in anticipo. Il prossimo è il 19 al Forte Prenestino, ci sarà una serata gothic electro industrial con i DJ di Radio Onda Rossa che suoneranno. Il 20 invece allo Strike, la storia del reggae romano, e poi il 24 naturalmente la festa qui in strada a Via De Volsci con un sacco di ospiti. Ore 17 mi è parso di capire Assalti Frontali e qualcun altro, ma insomma non so se posso anticipare io, ecco. Vabbè, per comunicare con noi, tracce di cinema @ondarossa.info, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è ascolta la diretta. Un'indicazione che ci avevi dato tu, penso questo potrebbe essere un buon pezzo di chiusura, Petite Fleur da Midnight in Paris. Sì, PG. Sidney Bechet, uno dei sassofonisti più straordinari della storia della musica mondiale. Allen ci ha chiamato la figlia adottiva Beckett, proprio in suo onore. Io lo dedico questo pezzo a tutti coloro e a tutte coloro, un piccolo fiore, che sono privati o private della loro libertà personale. Benissimo, sì. PG, a presto. Assolutamente, appunto, a proposito di quello che diceva lei, sono contento che con lo swing non ci sia, perché molto spesso lo swing e l'elettro swing sono associati alla frivolezza. Nel mio caso è l'opposto esatto. Sono contento che si parli di questi argomenti, perché non è così. Lo swing, appunto, come dicevamo prima, c'ha contenuto, e questo è giusto raccontarlo nel migliore modo possibile. Bene, a presto allora, un abbraccio.